Letture di Radio 24. Ride Along. Questo è il nome del servizio offerto dalla polizia di Los Angeles a giornalisti, legali e operatori sociali che, viaggiando con loro su una volante, hanno la possibilità di vivere sul campo la lotta alla criminalità. Benvenuti nel mio mondo. Con queste parole il baffuto sergente Herbert Cirillo accoglie due giovani ispanici arrestati in un venerdì sera come tanti da una pattuglia di una delle unità anti-gang della polizia di Los Angeles. I due ammanettati non ricambiano il sorriso del sergente mentre vengono condotti nelle celle temporanee della stazione. Il sergente Cirillo, sangue italiano e messicano nelle vene, ci porta in giro in un cosiddetto ride along, in una delle macchine in pattuglia nella sua zona di competenza. La divisione est del South Borough, che copre un'area di Los Angeles di 20 km quadrati con circa 175.000 abitanti. Andare in pattuglia in quelle zone è uno spaccato su un mondo che è difficile comprendere dall'esterno. Arresti, sparatorie, inseguimenti sono la norma. È interessante però notare come molti dei ragazzi affiliati alle gang si comportino in modo violento ma ugualmente stupido. Un esempio: quella Dodge rossa con fari e specchietto retrovisore rotti, che ovviamente attira l'attenzione della polizia e viene fermata. Dal controllo dei documenti emerge che i due occupanti sono entrambi fuori con la condizionale e certificati membri di una gang ai quali è impedita ogni forma di contatto reciproco. Questo sarebbe sufficiente per rimandarli dentro. E soprattutto può consentire alla polizia di poter perquisire la loro casa, o presunta tale, visto che danno indirizzi fittizi dove vivono amici e parenti conniventi, alla ricerca di elementi, pistole o droga, per incriminarli. La radio continua a gracchiare. Arriva la notizia del furto di un telefono cellulare ai danni di un bambino di 10 anni. Un atto di bullismo commesso con una pattuglia a 3 isolati di distanza. Due ragazzi neri vengono bloccati nel giro di 5 minuti. Hanno 16 e 18 anni. Il primo incensurato, il secondo fresco di carcere minorile per furto. Ora è maggiorenne e con il suo passato si apriranno per lui le porte del carcere. Il tutto per un cellulare che vale 50 dollari. In stazione il ragazzo rifiuta di togliersi la maglia. Dice di avere freddo. I poliziotti insistono. Il motivo del suo rifiuto si spiega in un istante. Sulle sue braccia campeggiano due numeri, il 6 e lo 0, vale a dire Rolling Sixties, una delle gang più note della zona. E la cosa non lo aiuterà quando andrà davanti al giudice. In questi contesti l'appartenenza a una gang è una norma. Prima di congedarsi, il sergente Cirillo ci invita a tornare per il compleanno. Davanti al nostro sguardo perplesso arriva la spiegazione. Le leggi si evolvono, le tecniche della polizia migliorano, così si affinano anche gli strumenti di aggregazione delle gang, che creano situazioni apparentemente innocue, feste di quartiere che in realtà sono occasioni di riunione e di nuove affiliazioni. Le chiamano birthdays perché sono una sorta di compleanno. La polizia è sempre pronta a partecipare alle feste, anche se non ha mai l'invito. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Borraccetti, Chiama la centrale, dal numero di novembre del magazine Il Intelligence in Lifestyle. Letture di Radio 24. Martedì 23 novembre, una batteria d'artiglieria della Corea del Nord ha bombardato senza apparente motivo un'isola sudcoreana, provocando 4 vittime e 19 feriti. È l'ennesima provocazione nordcoreana che, in risposta, ha provocato l'agitazione del mondo diplomatico e l'invio nell'area della portaerei nucleare americana George Washington. Ma la guerra di Corea non era finita nel 1953? L'articolo che avete ascoltato si intitola Kim gioca col fuoco ed è pubblicato da Repubblica del 25 novembre. L'autore è Vittorio Zucconi. Non taceranno i nostri cannoni, tuona il Nord. Abbiamo nuovi missili, risponde il Sud seppellendo i suoi morti. Il momento è grave, il mondo deve rispondere, invita l'America di Obama. E allora? Niente. Siamo nel 2010, a 60 anni esatti dallo scoppio della guerra in Corea, e non c'è niente di nuovo sul fronte occidentale. La guerra dimenticata, che non vuole essere dimenticata, continua a fuoco lento, indifferente e immune al mondo che attorno a essa cambia e la usa come combustibile per interessi più grandi. Quel conflitto nella penisola coreana, che portò il mondo sull'orlo di uno scontro nucleare, torna negli incubi di Obama, come tornò in quelli di tutti i suoi predecessori da Truman in poi. Ma tutto quello che Obama può fare è mandare una portaerei nucleare, la George Washington, a incrociare nelle acque di fronte all'isola colpita, mostrare la forza senza poterla usare. Nonostante gli strepiti bellicosi della propaganda diffusa dal Nord, siamo alle soglie della guerra, i nostri cannoni non hanno finito di parlare. Nessuno a Seul o a Washington crede davvero che questo attacco insensato possa riportarci al 25 giugno del 1950. Il bombardamento dell'isolotto nel Mar Giallo è un altro capitolo nel libro di provocazioni e di sfide che i Kim lanciano per far sapere di esistere ancora, di contare e per far paura. Un gioco che ha compiuto un brusco salto di qualità quando la famiglia dei feudatari nordcoreani si è data una capacità nucleare, ha costruito centrali, del tutto indifferente a sanzioni e minacce del resto del mondo, e ha cominciato a diffondere la propria infezione dell'underground del terrorismo, dopo aver accumulato un piccolo ma micidiale arsenale di 6 testate atomiche. Non è la bellicosità della Corea del Nord a spaventare, è la possibile collaborazione fra gli ultimi dementi dello stalinismo e i folli della guerra terroristica contro l'Occidente. Dal 1953 non sono valse ideologie, minacce, lusinghe, sacche di riso e cascate di sanzioni a fermare la marcetta della follia nordcoreana. Non hanno funzionato gli anatemi di Bush il giovane e la sua etichetta di canaglia inflitta alla Corea del Nord. Non sono servite la mano tesa di Clinton, la diplomazia cinese di Bush il vecchio e non è servita neppure la buona volontà dimostrata da Obama, disposto ad ascoltare tutti, in primo luogo i nemici, come disse. Appena un anno fa, nell'estate del 2009, lo stesso Clinton ricevette dai Kim un gesto distensivo mediando la liberazione di 2 giornalisti americani detenuti a Pyongyang. E un anno dopo, l'artiglieria del Nord bombarda un'isola del Sud, senza alcuna ragione, altro che banali manovre militari di routine. Né bastoni né carote hanno riportato alla ragione questa nazione incarcerata. Come sa perfettamente Obama, la chiave del carcere nordcoreano non è nella reggia di Kim, ma è a Pechino, in quella Cina che ora si atteggia rappresentante e protettore dell'intero continente asiatico. Le vere marionette in questo gioco crudele sono nella Corea del Nord e il burattinaio è a Pechino. L'articolo che avete ascoltato si intitola Kim gioca col fuoco ed è pubblicato da Repubblica del 25 novembre. L'autore è Vittorio Zucconi. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha rinviato al governo, per chiarimenti tecnici, il decreto sui rifiuti per ripulire Napoli. Un rinvio che di per sé non è inusuale, fanno sapere dal Colle, ma che rischia di ritardare ulteriormente la pulizia delle strade della Campania dalla monnezza. Sul decreto si era anche consumato nei giorni scorsi uno scontro interno al PDL tra il ministro Mara Carfagna e l'ex sottosegretario Nicola Cosentino su chi dovesse avere, tra le amministrazioni provinciali e regionali campane, il coordinamento e le deleghe per il nuovo piano del ciclo dei rifiuti. Intanto il Ministero della Salute manda una task force sanitaria per evitare epidemie. D'accordo, ma i rifiuti? Beh, quelli li mandiamo in Finlandia, Spagna e Svezia. 600 tonnellate al giorno di frazione umida di spazzatura per 3 mesi. Per risolvere l'emergenza rifiuti a Napoli occorre trovare subito le regioni disposte complessivamente ad accogliere questa quantità di spazzatura. Così, alla vigilia della proposta del governo, si sta stilando il piano di azione per far scattare l'operazione Strade Pulite. Si tratta solo di organizzare i trasporti, spiega Giovanni Romano, assessore regionale all'ambiente, perché tutto è già stoccato dentro appositi stabili, si tratta solo di inviarli con i camion. Tra le ipotesi c'è l'utilizzo dei militari, ma Romano pensa se ne possa fare a meno. L'obiettivo è resistere così 36 mesi, in attesa dei termovalorizzatori di Salerno e Napoli. Intanto ci si accorda per inviare i rifiuti in Spagna, Finlandia e Svezia. L'azienda del termovalorizzatore di Acerra, Partenope Ambiente, ne sta perfezionando uno con un'impresa andalusa di Jerez de la Frontera per smaltire 30.000 tonnellate di frazione organica da trito vagliatura. che potrebbe presto diventare almeno 60.000. Le spedirebbe via mare con carichi da 3.000-5.000 tonnellate, partenza da Napoli, costo al di sotto della media di smaltimento in Campania, 130 contro i 140 euro a tonnellata. In Finlandia e Svezia, invece, vogliono la frazione secca. Partirebbe sempre in nave con tagli da 3.000-5.000 tonnellate alla volta. Lì hanno termovalorizzatori sovrastimati per la produzione di immondizia locale che dopo la crisi è diminuita. Ma i rifiuti servono per poter produrre l'energia necessaria a scaldare le case. C'è stato già un incontro con imprese del posto. Per 3 giorni sono stati a Napoli e hanno confermato che il tipo di rifiuto va benissimo. Il costo sarebbe ancora più conveniente, da 90 a 100 euro a tonnellata. Partirebbero subito, tempo 20 giorni. Vorrebbero una nave di rifiuti a settimana. Con un carico medio di 4.000 tonnellate a settimana si smaltirebbero 180.000 tonnellate all'anno. E l'emergenza continua. L'articolo che abbiamo ascoltato è Pronte Finlandia, Spagna e Svezia. L'obiettivo è resistere 36 mesi, di Virginia Piccolillo e pubblicato sul Corriere della Sera di giovedì 25 novembre.